Ma non è uno scontro politico, sono baruffe chiozzotte che finiscono nelle 24 ore, non c'è nessuno scontro, solo il rammarico di dire che sento argomentazioni che erano lo stesso che un'altra parte politica adoperava quando siamo andati in Cina, dove c'era la dittatura di Pinochet, quando siamo andati in Argentina, dove c'era una dittatura, chiamiamola fascista, di destra, con Videla. Le ho risentite a Mosca, ogni 4 anni c'è un'Olimpiadi e qualcuno cerca di occupare il palcoscenico. Io credo che dobbiamo dare il contributo, noi, del mondo olimpico, a far sì che questo paese aiutarlo a cambiare. C'è una parte della società cinese che lo vuole e lo vuole attraverso le Olimpiadi.